quella del Milan. K, 3-4 punte. Però c'ha il coso, c'ha, che è abbastanza lungo, il microfono. Il capo, dai. Attacco Midland. Negativo. Midland. Oh no. Quello contrario, per padre, dovrebbe essere i fili sopra sotto e viceversa. Luca, confermi, il Midland è così. Yes. Luca. Via. Confermi, la Fayette c'ha gli attacchi inversi a quelli del Midland, così è. Sì, praticamente li invertiti, quelli lì si invertisce di più e quelli lì li metti su. Dici, sta bene il microfono che c'ho io, Antonio, Antonio. Allora qua che lo proviamo. Allora chiami voi. Sia questo che l'altro, quello a tavola. Ah, si può provare io. Portalo qua che lo proviamo. Però non è male, male. Luca, come mi senti? È un po' così, ragazzi, è comprensibile. Caffa, dai, cosa vuoi? Cioè, è un apparatino così. Pagato. Però funziona abbastanza bene, intanto qualche microfonia migliore. Va bene, dai. Però mi sa portare. Sono uscito. Sono gatto. Poi il microfono che sta dando le pizze scomparsa a un certo punto. Leoncino, Leoncino, sei proprio un birichino. Non fare da vicino. Fagappa, le stazionarie sono sott'occhio, perché ho attaccato il rosmetro. Buono. Ma 1-1, caffa. Che microfono ti sta portando il TAM? Ho provato quello, non va bene. Adesso mi sta portando un altro. Se le cose così inverse. Sicuramente. Le apri un pochettino le dici. Oh, io lo sento abbastanza tranquillo e lo sento chiaro. Se potrebbe anche da chi ascolta. Con che apparato ascolti soprattutto, perché l'apparato che fa la modulazione e la ricezione. Ma questo tu all'IC non ne apri questo, perché è software, cioè tutti quanto pieno di software e cose strane. E bisogna togliere una resistenza. Scusa un attimo. Questo non è A di quei trimmer lì. È di nuova concezione. Anzi, cambio. Ma ci sono le resistenze per bloccare la modulazione, basta tagliare quella e unire i fili. Basta tagliare le resistenze, così dopo che sei sbagliato è copia già tutto. Vabbè, bisogna sapere quale toccare, così ha fatto, come si chiama? Da. Non mi viene il nome. Luci, come si chiama quello che abbiamo trovato in quel posto là? Marco. Marco Condore ha tagliato una resistenza e ha unito i fili. E ha aumentato la modulazione. Ma di questi qua c'è anche la versione, come si chiama? La versione extraeuropea, amico, il canale. No, non so se si può. Questo qua si può fare, ma io non c'ho lo schema elettrico per fare la modifica. Se no ve l'avevo fatto. E vabbè. Ce va bene lo stesso. Prendi un baracchinetto e va benissimo. Cosa di più, con la modifica? Antonio. Anzi. Ma dove l'hai preso? L'ha bugiato. Ja. Fa, l'ho preso lì, l'ho preso. 65 l'hai pagato. Sì, me l'ha fatto pagare, vabbè, l'ho pagato un po' di meno, non tanto di meno, ma ha fatto lo sconto, dai, che era l'ultimo pezzo, adesso li sta riportando. Va bene, dai, cos'ha? Mamma, 65, poi c'è quello di 120 e l'altro 90 e passa. E qua quello da 120 cosa c'ha? Sul microfono. Cosa? Già, sul microfono e poi non sarebbe un anch'io. Ho capito, c'è tutto dal microfono. Tutto dal microfono, ma quello non puoi nascondere la base, non puoi nascondere perché non c'ha nessuno pulsante e niente. C'è tutto sul microfono, dica il microfono c'ha anche il coso a cristalli liquidi e pure puntino. Deve essere interessante però, si può mettere nascosto e lasci solo il microfono attaccato. Sì, infatti c'è anche il video e tu puoi metterlo anche per una bagaglia. Perché c'è addirittura c'è una bronca, oltre a quel attacco c'è una bronca di 2 metri. Però c'è tutto sul microfono, visto che è leggerino, ti scappa, cazzo, trappi tutto, anche io c'è poi sul microfono, quello ti bisogna essere molto battere. Ma poi a me piace vedere la parte di mirato, di notte, non c'è nulla, è troppo freddo, non mi sa di apparato però. Quello vedi, un microfono un po' più grande degli altri, illuminato di blu stesso, con gli display e tutto quanto, il parte illuminato di blu. Così è. Allora, è così però, è leggerino, troppo leggerino. Appagato. Che cosa andrebbe bene per la macchina nuova? Senta, come la fa mettere? Ma ho già detto che non le vuole dei buchi nella macchina. Di buchi? Di bucare la macchina non vuole. E tu non la bucare? L'antenna della radio non dirà buca. Ma la faccia l'altra? Mette al portabollo come nell'altro. Ma è buccio, non c'è bisogno di buccio. E vabbè, ma non è vuole, di antenna. Adesso mi forse ci decidiamo. Se ci decidiamo in agosto, è un tanto. Se a settembre aumentano pure. Ma non ti conviene la macchina in questo periodo, Perché? Ma cos'è, secondo me non lo fa? Nuova, nuova. No, non conviene, perde un anno. Io, beh, non è una futilità, vuole una macchina sicura, perché quando va fuori a vendere il coso, deve avere una macchina che gli ha più garanzia. Adesso questa qua gli ho cambiato le gomme, la batteria, gli ho fatto la convergenza, equilibratura, ti ho cambiato quei snodi che mantengono il braccetto delle ruote perché ci volava quando sterzavi e c'erano quelli che ballavano, erano proprio sboccolati là. E gli ho cambiato anche quelle testine di... Non lo so, vedo un po', però perdi un anno, Adesso conviene a gennaio prendere la macchina, lo so, però qui aumenta e tutto quanto non ve la vai più. Sì, anche a gennaio la c'è piace, l'ho aperto. Che macchina stai prendendo? Siamo ancora indecisi, tra la Peugeot, la C3, e la Panda. La Panda... accessoriata. Sai chi le c'era su quella tre macchine? K. Secondo te qual è la più accreditata? 106 mi piace un bel. La 106, quindi la Peugeot. K. Che macchina usai di tra i due estoni, non penso che sia pure gli italiani. Lo so, ma... siccome la macchina è sua, io glielo metto, la macchina la vuole comprare al gusto suo, allora io glielo metto, scegli tu. Anche la Panda non è brutta, se la compri Celestina non è brutta, quella azzurro di alto. Capo, la Panda sono tutte belle, quelle che ci sono adesso sono belle, dai. A me non è che mi piace assai, ma comunque lei che deve decidere, lei a lei mi interessa che abbia un portabagagli dove ci stia la spesa e che sia a 5 porte, perché ogni volta si deve afferrare per metterci la roba dentro e cose, invece così apre la porta e la botta. c'è la valuta per la macchina bene alla Peugeot 2006 ci dà. Sì. Dove non ci sono molte, è proprio nuda, già, buona bene. Poi gli altri ce l'hanno fatto di meno. Ora certo per l'ultimazione, lassù. €1000 €1000 cioè, quello che ci ha fatto di più è la Peugeot. Gusto suo, io non posso metterci l'incoci. Io ho detto che con l'estere paghi un bel. Addirittura la C3 ci faceva un'offerta che per 5 anni non pagavi nulla, se te la graffiava, te rompevano i vetri, praticamente se ti si guasta, tutti italiani non paghi manco una lira. A questa però devi fare la finanziaria, io finanziaria non li voglio fare. E fa la finanziaria per 5 anni e per 5 anni trovi la macchina e io gli ho detto ascolti ma pagandola in contanti si può fare, dice sì ma deve pagare 60 euro al mese una ratta, allora c'è la compresa che lei sì nella notte della finanziaria c'è la compresa di l'offri so. Mettevano per iscritto un'assicurazione proprio che ti fa tutte queste cose qua, vetri, se ti spacca il vetro, se ti graffia la macchina, tutte queste cose qua, sono tutte in garanzia. Ma alla fine vedi bene che non ti ho detto, però alla fine non voglio un pagamento come finanziato, fanno così, perché alla fine dei 5 anni te ne saranno mangiati 2500 euro che ti hanno dato. Sì, infatti, se non vedi. Perché pagamento in 5 anni ho già, pagamento in 5 anni non sono questi 2500 euro, ma se pagano di più anche in 5 anni mica se ne pigliano gli interessi. No, ma io non ne voglio pagare a parte, la voglio prendere in contatto direttamente. E dietro a quelle cose si nascondono sempre le fregature, perché la fregatura poi sta al diritto. Perché un pagamento in 5 anni, guarda, il tasso di interesse non oso pensare quanto sia. Che in 4 anni è 800 qualche cosa, non era manco 1000 euro, ma dopo facendo dei conti veniva più di 2000 euro. Lui ha detto così, poi abbiamo fatto dei conti a casa, ci veniva di più, poi non, meglio non averne di buffi. Se riesco la prendo tutta in contante, buonanotte. Ma non lo dico neanche scherzando, quello che voglio vedere qua è la finanziaria, poi mi conoscono da sole con quelle che finanziano le macchine e si accontentano in 4 anni di 800 euro, sì domani, innanzitutto ti parte la prima cambiata la paghi doppia, la paghi già i ghibi, ti tacca 90.000 e tu te la cambiare e poi ti fai cambiare la finale che te ne vado a passare la gara. Bolli, tutto tanto, bolli, cartoffi, tutto quanto che si deve avere pagato, documentazioni, eccetera, eccetera. Questi 2500 euro lo uso con le ferme, che tra l'altro è una bella macchina, non è a caso, si ripiglia le cuscine, ecco. Ma io finanziaria tanto non la devo fare, io verso la macchina, ma finanziaria non la faccio. La prendo in contanti, se la prendo, se no non li biglio. E però non deve superare quella cifra, se no non ci arrivo. Certo, è una cosa che ti toglie la mente alle scatole, perché guarda, pagare a cambiare, specialmente oggigiorno, è diventato una cosa quasi impossibile. Infatti, no, non me ne voglio mettere i buffi. Non mi interessa mettervi i buffi, meglio prenderla in contanti e via, tanto. Perché quella lì oramai, per quanto sia, perché è una macchina che va sempre bene, è andata anche a Uber l'altro giorno, ma sta diventando vecchia, dai. O la metti a posto completamente, devi fare il motore, tutto quanto, oppure la dai. Quella lì, se avessi trovato qualche marocchino che la voleva, ce l'avrei venduta. Sì, già fa bene, vai, tanto ormai quella cosa giusta. Ma va bene, vai, quella lì ormai. poi anche un segno si va a cercare una cosa vecchia, si dice il motore campa da altri 5 anni, ma boh, è sempre una cosa vecchia, dai, non vale la pena. Poi si spedite l'ufficio, grazie, quello che mi sono pentito è avermi fatto questi lavori, aver cambiato le ruote e tutto quanto, grazie per caso poi darla così, mi dispiace, perché le ruote sono nuove di una settimana, la batteria va a al massimo un mese. Se lo mettiamo sull'occasione anche vediamo un pochettino, perché i contatti ce li hanno fatti tutti con la macchina, con la panda, se no qualche cosa ha diminuito, per dire da 11 veniva 9, 8, 10, dipende dove andavo, anche alla Mercedes sono andato per vedere la classe A. Hai cazzo cosa però, ma l'abbiamo fatto una buona gioco per l'altro, 20 milioni, 20 mila euro, dando la macchina. Perché non ho dato mi sembra troppo grande, non so quanto venga sinceramente. Ah, come troppo grande, non può venire qualche cosa, c'è la 1200 per la normale, 9000 e tanti. Lui non vuole macchine grosse grosse, lui la macchina interessa più per altro. Città, per accompagnare bambini a scuola, fare la spesa, tutte queste cose. Che qualche volta va a Olbia, sia per lavoro che per trovare fratello. Ma non è che la usa andare fuori eccessivamente la macchina. Ma non è una, tu lo sai meglio, è appunto una macchina familiare, una macchina di famiglia, non è grande, ce l'avete avuta appunto, diciamo che è una cosa così, non è una macchina grande, stiamo parlando di quella diciamo 1200 normale, non stiamo parlando di... Non c'è la appunto, come si chiama adesso, non ricordo, è meno 9000 e tanti, è un appunto normalissimo, non è una grande macchina. Grande così, no? Non ti credi che sia più di una banda, ma appena di più è boh. Però diciamo che se deve le cose che fa anche tra un portabagagli che contiene la macchina, dietro c'è la disposizione che per il bambino e tutto quanto è abbastanza agevole, cioè è una macchina molto agevole, ecco. Ma è una macchina sempre familiare, di famiglia, ecco. Cosa stai dicendo tu? Ma vendono ancora quella normale, vendono? Cioè, quella che non è grande punto, dell'ultima serie. Quella viene anche molto meno, l'ultima serie della punto normale. Sono così 8.000, 9.000 euro, così. Adesso vediamo. Non lo so, non ci abbiamo pensato, abbiamo pensato alla panda della Fiat, ma quella non ci è venuto manco il pensiero, la verità. Guarda, ti dico che tra l'altro, tra la palla e la porta, guarda, non credo che ci sia molto differenza, perché quando ti ho detto per la palla? Non lo so, penso su 10, una cosa di 10 qualche cosa. Ma quella che ti sto dicendo io, cioè 9.000, 9.600, una cosa del genere. A meno che non vuoi dire pianta a gas, no, arriva a 10.000, 10.000 è qualche cosa, perché c'è anche quelle pianta a gas, casa nuova, direttamente alla nuova, direttamente già fatta. Non so, ma se la fanno fuori, io già sentito uno, venuto con una macchina dove ho piazzato l'impianto a gas io, e gli ha detto che non stavo andando bene, gli ha detto guardi mi dispiace ma questi impianti a gas noi non ce li abbiamo qua in Sardegna, li fanno solo fuori di questa marca qua e i pezzi non ce li ho, c'è da cambiare questo pezzo, gli ha detto però non... Cioè come se l'ho comprata così, sì, vabbè, l'ha comprata così, però si sono fatti fuori, quindi altri pezzi qui non si trova. Ma guarda, la punta la fa la parte, cioè, le fa avvino. Quello che dove vai tu? Ah, non lo sapevo. Io so che va la golf. No, che la fiat la portano lì. Volkswagen lui, ho visto che fa, venivo a vedere il motto, a fare impianto e poi le riportare a destinazione. No, allora le macchine arrivano normali qua, poi le portano a fare, loro le portano a fare qua adesso, e mi trovo anche a pagarle intanto, le piante, non le paghi di manco, ti cavolavi tu, però lo paghi, e noi ho detto guarda. Sì, è vero. E il mio mi era avuto 1.100 euro, 1.200, adesso non mi ricordo. Però ci avevo anche una percentuale della regione. Beh, come siamo bene, soprattutto quelli della diretta dell'Automax di Via Venezia, perché erano anche clienti di Daniele, che ci servivano del suo automatico per lavare le macchine in uscita nuove. Adesso glielo dico a mia moglie, adesso ha chiesto anche alla Peugeot di Olbia, gli ha fatto un buon prezzo anche lì, adesso solo per la Panda però, alla Fiat, alla Pinkart. Alla Pinkart diciamo dove gli hanno fatto il prezzo migliore. Pinkart a Olbia si lavora, si può discutere bene, perché per dire, cosa ti posso dire, cosa a me, quello della Peugeot, c'è la concessionaria a Olbia, a Sassari, a Portatore, io ho fatto presente a Portatore, lui l'ha fatto a Sassari, e poi l'ha fatto anche a Olbia, l'unico prezzo che abbiamo fatto è quello di Olbia, oppure lo stesso padrone. Ciao, buongiorno, se vuoi potevi fare un affare, c'era proprio una via, l'Automax, aziendale, chilometro zero, ho impianto già a casa, già fatto, 8.700 euro. Cos'era? Ma tanto. Davvero? Ma stai girando anche tu per comprare? Oh, io sto guardando così, sto guardando. Ancora devo guardare. Ma comunque penso che sono io accanto lì, Ma quella era un affare, già, era un affare. Chilometri zero, poco chilometro. Impianto a gas, bianca di colore. Ma era da comprare. Se avrei avuto adesso disponibile l'avrei presa. Però adesso non era disponibile. Vabbè, pazienza. Io ho visto una aziendale, non chilometri zero, ma aziendale con 25.000 chilometri, 7.000 e qualcosa, ed era, si poteva definire nuova per qua, era bellissima, l'appartamento, mi sono seduto, guardato, controllato, nuova di zecca. Tutta tenuta bellissima, non c'era un graffio, non è tutta tenuta bene, lucida, e l'ho vista lì, alla Opel. Io stavo anche andando alla Opel per vedere, ma è purtroppo sempre nessuna macchina più giovanile. Kappa. Biancino, riprendi. Già, ognuno la pensa con la testa sua, fa le scelte come vuole, io su questa cosa non ti posso dare nessun consiglio, siete voi che state scegliendo, io trovo, se vuoi ti porto giù all'altro A, ti conosco gente, un piccolo sconto per la macchina, ti ritirano la tua, ti fanno pagare quello che hai capito. Ah, ti ringrazio, ma adesso è più orientata sulla Peugeot. Ogni giorno ne cambia una. Prima le piaceva la C3. La C3 è piaciuta anche a me, dico la verità. C'aveva un interno che era una favola, una strumentazione di bordo computerizzata, ti dà tutto quanto, la benzina, quanto consumi al litro, quanto devi camminare per consumare quel tanto, ti segnala la velocità, stai camminando più quel tanto, insomma c'è un bel roba. riprendi tra tu Pierpaolo. Oh Gianni, poi c'è una macchina, non so se ti può interessare, a buon prezzo. Sarebbe? C'è una Ford K grigia con la tenera sulla cappotta, a 50 euro. A me non mi piace di lussui. Maledetto, maledetto, tu sei un peggio di Giuda. guarda, se esisti molto molto il parole sarà anche gratis. Giuda, se si può proprio fare, ma non si può perché il nome è diverso. Non fa. Avremmo versato quella di Giuseppe e gli avrei dato la panna, che è messa più bene. Ah no, non sono malintendo io di queste cose, no? Vabbè, io vado un attimo qua, no? Un saluto, abbiamo un proseguimento. E ce lo riascoltiamo, ci sentiamo domani, no? Già. Ehi. Ci sentiamo, va. Cappaga. Faccio una bella voce, chiamo. Sacco di positivo, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Avanti Giuseppe per i saluti. Va per fa. Piano, se hai mangiato, non hai mangiato, cerca di mangiare piano, non c'è dei traverso, eh. Allora, ho anche digerito, ho già fatto l'uovo pure. Ciao, buonanotte. Ciao per fa. Avanti, bomboli. Ciao per fa. Ciao. Avanti bombolo. Ah, vedi tu già. Un pochino vedete voi cosa scegliete. Ma girando si trova l'occasione anche. No, ma noi abbiamo visto macchine chilometri zero, macchine aziendali, abbiamo visto di tutto. E niente, adesso ci verrà lì perché la macchina è per lì e quindi anche se me la sfrutterò anche io perché di casa ma è per lì, cioè la macchina se la sta prendendo per lì, quindi deve anche piacere a lei, capito? Colori, tutto. Lei a me mi ha chiesto che colore mi piaceva e gli ho detto nera, però gli ho anche detto che nera tira il caldo e che è sporchevole. Gli ho messo anche avanti i pro e i contro, va. Capo, perché visto che considerando che va a Olbia, va un pochettino in questi posti lontani, eccetera, eccetera, ci vuole anche una macchina un pochettino, non molto grande, ma anche una macchina un po' robusta, che tenga a chilometri. Sembra così, ma secondo quante volte esce fuori Sassari, eccetera, eccetera, ci fanno anche chilometri, eh. Certo, non va tantissimo, ma per lavoro almeno una volta al mese va. Niente, ma non è tanto quello, anche 6 chilometri quella la Panda, ne ha 92.000, mi pare, non ne ha tantissimi. Il fatto è che non c'ha l'airbag. Io non voglio, se c'è qualche cosa con la macchina non è sicura, capito? Già, non ti ho capito perché sono dovuto andare per l'ennesima volta a aprire la porta, cazzo. Ho detto che non è tanto la motoristica, perché il motore va bene, io li metto sempre 2.000, non li metto un olio di cavo, anche alla Panda. Il motore gira bene, gira tranquillamente. Il problema è che non è più una macchina sicura, non è mai stata una macchina sicura perché non c'è airbag. Capo. Quindi bisogna vedere un po' tutti quanti gli aspetti, prendere anche una macchina abbastanza tranquilla e sicura, robusta, visto che esce così tanto fuori, che tiene anche i chilometri, là. Quindi bisogna fare una scelta giusta. Ivana Peugeot. Io l'ho chiesto alla mia collega che c'era un bel di anni e mi ha detto che non gli ha mai dato problemi, che è una macchina che va benissimo, che problemi non ne ha dato, grazie a Dio dice problemi, a parte il tagliando di tutto il resto va bene. Fermi. La cosa, mi hanno detto che la Citroen sì, va bene tutto, però ci sono un particolare, l'assistenza che che ti fanno due palle che non ti dico. E me l'ha detto un amico, me l'ha detto, che non ne può più. In che senso, Vantù? Non ho capito. Due palle in che senso? Che ogni cosa sono soldi, sono molti soldi, c'ha la C5, non ti fanno, ogni tanto si sbaccia una cosa, non ti fanno l'assistenza bene, è un casino, eccetera, eccetera, solo quello. Ma ascolta, l'officina ci hanno quella autorizzata, non c'è lì dove c'è l'autosalone? Da Confalonisi. Oso è Cavizza gli aggiusta. Chi è questo Cavizza? Visione. Io vedo un anno. E lì in Viale Produttore si fa quel tipo di macchina. Adesso la sta portando lì anche. Ma cazzo, quando la portava alla Citroen, mamma mia. Che loro ce l'hanno l'assistenza a Confalonisi? Senza Citroen. A quanto ho capito, però dice che non ha rotto dai palle. Sentite cosa ho detto poco fa, io non la prendo a rate, però chi la dovesse prendere a rate, c'è questo tipo di assistenza che tu per chilometro ti avresti senza pagare una lira. Qualsiasi cosa abbia, funzione, cambio, marmitta, se te la graffiano, se te rompono il vetro, sì, garantita al 100%, per 5 anni, 12 anni sulla corrosione, 2 anni sul motore. C'è un grido di tirata un'assistenza, già. Cioè, però non è giusto fare, perché io non posso scegliere di pagarmela, cioè di andare lì con i soldi a comprarmela. Quello non mi sembra tanto giusto, No, tu lo puoi fare a pagare i contatti, chi l'ha detto che non lo puoi fare? Solo che perdi quel tipo di garanzia. Se vuoi che ci sia quel tipo di garanzia, devi pagare 60 euro al mese. Quindi ti esce una rata. Cioè praticamente a te non ti si sfasciava, che adesso puoi pagare senza che ti si rompa. Allora ti conviene direttamente pagartela quando ti si rompe e basta. Ma alla fine te la sei sempre pagando già quella rata. Perché tu pagando le rate la macchina ti viene di più e quindi te la sei pagando. No, secondo me lo fa una cosa, in ogni rate si riscono le 60 euro per l'assicurazione, capito? Per rate i 5 anni mi pare che siano i 200 e passa euro al mese. No, sono una cosa, sulla parte che i 5 anni non ti basta più. Ma non ho più da fare, io ci sono con un danno, non andrò bene. A me non andrò molti minuti, per carattere che io, a me non mi piace pure i miei buffi, per carattere che io faccio una cosa, se posso comprare una cosa la compro, se non la posso comprare la si viene, però un ratto non sono molto propenso a mettere. Vai, non mi può pure i rati a pagare. Ma manco per sogno, cioè sono lì, ci sono un danno, un po' di niente, ho comprato cose. Ma tu non ti metti conto che c'è qualche imprevisto, non ve la vai a pagarla. Cioè capite se punente, di guai fa nulla. Cioè è meglio avere una cosa che, per esempio, cosa ne so, una cosa vecchia, cioè che è fatta bene, che mettermi una cosa nuova e mettermi le condanne. Io la penso così, se la posso prendere nuova la coppa, se non la posso utilizzare la sono di cazzo, ma se può punire. Aspetta che telefono Manuele un secondo, riprendete il lungo di un vicino, che telefono Manuele un secondo. Avanti Leoncino. E io non quanto. Mangiando un po' di gelato. Che cosa ha detto? La nocciola. Guarda quanto è piccolo questo microfono. Piccolino, l'ho visto. Contento, dai, sono soddisfatto. Ma siamo stati già aperto, voi. Ti danno un consiglio. Lo accetti e non lo accetti. L'importante è che a te ti piaccia, è fatto della tua scelta e sei tranquillo. Non è tutta questa grande cosa, però io, guarda, sono una persona che mi accontento sempre. Papà, ero intenzionato a prendere anch'io quello lì, quello piccolino, ma solo che se riesco a vedere quello che ho a casa me ne prendo un altro, capito? Però voglio un apparato, io comanda con il microfono a tavola e tutto quanto, capito? E che lo vende? E quanto lo vuoi vendere? Ecco, se riesco a venderlo, lo vendo anche 50 euro, capito? Ma di più no, che apparato è? Tipo l'ARA 48. Che è 68? Capito, l'Intec. Assomiglia un po' all'Intec, tipo un ARA 48, hai capito? Ah, io Giuseppe, passa a casa a prendere il caffè. Ah? E sto mangiando gelato. Beh, fai la s'affogato. Caffa. Sfogato non l'hai mangiato? No. È buono. È buono. Caffè con gelato. Quanto? Forse ho mezzo capito cosa stai dicendo. No, non l'ho mai mangiato, ma l'ho visto fare, mi sembra. E io l'ho mangiato proprio, mangiato la Olbia, per la prima volta, dico la verità, era buonissima, ma buono però è. Caffa, no, non l'ho mai mangiato già. Ho fatto un'amica nostra di Milano, che prende la casa lì vicino dove la prendiamo noi, dentro la città mercato, Olbia Mare lì. E una sera è venuta a casa e ha portato, è venuta a cena, ha portato questo gelato, ha detto se fai il caffè facciamo la affogato, pronto, facciamo il caffè e ha fatto l'affogato al cioccolato. Cazzo, andava a Puglia, cosa c'è nero? E buono. Non ce l'ho preso, cioè l'ho visto fare, ma non l'ho mai mangiato, Se c'era il caffè già l'ho mangiato, non è che mi piace molto, mi piace più cosa, come si chiama, no? Il mio gelato è cioccolato, fior di latte, panna montata, con una spruzzata di cacao sopra, quello è il mio gelato. Ti piace la zuppa inglese? No, no, a me no, troppo dolce. Ah, mi piace quei biscotti in mezzo. Ci sono gusti, c'è gente che mangia la fragola, a me la fragola non mi piace. Babba mia, la fragola al gelato, però fragole normali mi piacciono, ma il gelato la fragola non mi piace. Sì, te ne mangio con tutti, eh. Non è che non ho molte preferenze, no, già ci sono alcuni gusti che non è che mi vadano tanto. Pistacchio, io odio il pistacchio, poi c'è gente che se lo fa la frutta al melone, alla pesca, eccetera eccetera. Quindi a come ti piace il gelato? Ma tu me la fai, nel melone, anguria, no? A me, nocciola, pistacchio, cioccolato, vaniglia, cream caramel, il tuffo, qualche gusto, tipo torrone, ma carità, Caccia invece. Un po' dolci sono, no? A me non mi piacciono i gusti molto dolci. Bocca! Via! Ma sai cosa sto mangiando adesso? Il gelato alla nocciola. No, io sto mangiando cioccolato e vaniglia. Sono in offerta, devo spingere, ma aspetta, lui lo muore. Io non sto mangiando perché li ho finiti. Mia moglie li ha comprati, sia i cornetti che i pinguini. Sempre di loro spin, però li abbiamo affrontati tutti. Pure una bombata, già. Aspetta. Vedete se piglia la coppe. Aspetta, metto il canale di accendere. Però scendo appena appena, non ti intengo più, non mi piglia a goife. Era per renderti conto se li prendevi. No, no, non ne prende, no, non ne prende il colpe. No, io volevo sapere il mio, il tuo già lo so. Anche quello è già di buono, dai. Logicamente, il cazzo, mi arrivi, cioè, tutto, sei tutto tirato con lo Smithers. Questo Smithers non ne ha. Però mi sono reso conto che non mi piglia a colpe, non mi dà fastidio a me. Paga, paga. Non ti vedo fastidio, no. Fastidio nessuno. Anche poco fa con babbo andavo e lo sentivo, perché me lo sentivo molto forte, però molto contenuto. Vuol dire che risponde bene, dai. Avanti Lu. Questo è un fantasma, ogni tanto sparisce. E la sirena mi viene turbo. Mitraglia. Non l'unica sa. La vite a casa, dice questa non è acqua, questa è acqua vite. Qua vita, figlio, bene. Detto che non beveva più per ma solo, acqua. Poi se la volevi la potevi fare più rasata, ma la rasata, se era più il tappo, e gasata. Se invece la volevi gasata, la coltivava, così è gasata. Futtina, come la metto gasata, è gasata. No, va bene, naturale. Ma tua vita è andata. Questa non è acqua, questa è acqua vitta. Allora cosa che ci credete che era? Non male, la comitiva di un fiaggio. Fiaggio. Come la prima se ne accorgeva, ma con un soffo nel mezzo. Già. E ancora certo stasera, sempre lontano, ti stai con me. C'è sempre un'anima in pena. Ma io dico, stavo facendo un pochettino di prove, dai. Ebbene, hai trovato questo microfono di sparabdare? Manco uno venne. Davvero? Ma bisogna comporlo. Sì, basta, te l'ho detto. Quello del Milan va bene. Va bene. Guarda, come io gli vesti, quelli sotto, sotto, quelli sotto, sotto. Chiappa. Ma per il momento lo lascio così, dai. Sono soddisfatto. Soddisfatto o rimborsato? Ma per quello che ho pagato e tutte cose, cioè, diciamo che mi sono trovato bene, dai. Io del mio sono soddisfatto, non sono soddisfatto invece del venditore, che è un grandissimo pezzo di merda, perché l'ho chiamato 50 volte per questa garanzia, non me l'ha ancora spedita, e mi ha detto che me la mandava su internet, ho detto fai come vuoi, più interessante che tu mi mandi l'istruzione dell'apparato. Mi ha detto che me la mandava via email, non me ne ha mandato, mi ha chiesto il nome dell'email, il mio nick, e te la fai, non è arrivato nulla. Cazzo. E così ha fatto dell'altro apparato, dell'altro che c'è in macchina, che l'ho preso stesso da lui, ha fatto la stessa cosa, quindi un bastardone, non ti dà né garanzia né nulla, solo che quando ti si sfascia poi ti apre di luce. Non ti ha dato la garanzia manco lì? No, no, dell'altro mi ha mandato le istruzioni, tutto il coso, però garanzia non me ne ha mandato, mi ha detto scusami, ti mando la ricevuta, no, io voglio lo scontrino per la garanzia. No, ma io scontrino te ne posso fare, ti faccio la ricevuta, un bel appiato, un bel è un pezzo di merda, non si sembra come parla. nel trasporto di un rimedio, ma la devo scaricare, devo spreccare un bel canto con me, roba che devi mandarmi tu. E poi allora si vede che tu non ne capisci di computer, cazzo, basta che vai, te lo guardi, quando ti serve te lo salvi, te lo fai. Ma scusa, perché io devo andare al computer ogni volta se mi succede qualche cosa fuori, roba che devo controllare, non posso guardarmi. E vabbè, comunque è un truffaldino, gli apparati vanno bene, ma lui è truffaldino, non fa garanzia. Cappa, è truffaldino, sì. E comunque sarebbe di farle fare un bello scherzetto, e che lui non è che può fare queste cose. Sarebbe di comprare un apparato da lui, farlo mandare, dopo quando non arrivi le cose, d'accordo con la polizia, quando arrivano le cose, bisogna andare nella sua città e passa brutti quarti d'ora, ma che impara? A me mi ha dato la garanzia, a me. Beh, ci credo, anche a me degli altri. Ma basta fare una telefonata, loro partono direttamente da lì, è un bisegheggia. Sì, è truffaldino, perché ora l'ho capito bene, ma gli ho telefonato più di una volta, ha detto che me la spediva, prima qua e là, ha detto, non ho ancora ricevuto, sì, ma io non ho ricevuto ancora il tuo indirizzo, guarda che io ti ho mandato l'email con l'indirizzo, e poi se mi hanno mandato l'apparato, il mio indirizzo ce l'hai. No, l'ho perso, l'ho risato tutto, sì, te lo spedisco, tu visto neanche. Allora te l'ho fatto a te, ma è più semplice che te la mandi via computer. Guarda che se tu hai problemi con le spese di spedizione, te lo pago io, non c'è problema, però mandalo. Che problema, insomma, allora, non ha proprio pensato, può usare i veri, già 4, no? Non ha pensato proprio, vabbè, poi sono persone oneste. Non so di chi ti ci pettuno. Fuori te lo mandano, non è che loro te lo aggiustano l'apparato se ti si rompe, te lo mandano fuori. Cosa? Se mi si rompe, mi vero cassonetto. Perché? Cosa aggiustano? Oh, lo dai a qualcuno, te lo fai, se no. Vai, non ne mando fuori, non ha più il tempo con te. La cosa quando funziona bene, funziona bene. E boh. Troppo bene queste cose, poi io sono una persona che quando vede che cosa che anda male mi nervosisco e gli dà ragione. Fuori è sempre un rischio mandarli. O me lo fa di qualcuno, di buona cosa, o se no, se ti occupi di un cascetto a mondo è stato raccomparato un altro. Però io ho quel carattere, a me mi si girano subito i coccomeri. A me ti diristi. Ah. Io non mi arrabbi mai altro mai, perché boh, io sto tranquillo e sereno, ma tirando è un casino, la vita, io evito sempre, ma di chi compio, vedi che più di uno mi piace. La situazione a me è, posso subire la corruzione, però pieni, ma appunto non, tanti colpi si tornano sempre, ma ci danno anche. Cassa. Adesso sto parlando solo che quando una cosa non serve, ho un aggasciamento, o se no se c'è qualche duomo volenteroso che l'aggiusta. No, al cascionetto, ho detto a me portarlo fuori, spederlo fuori, cosa? Mi si girano gli zibidemi, hai capito? Ah, pensando che stai parlando di maestri incatti per qualcuno. Io, vabbè, se riesco, ci provo una volta, mi dico, tre pugni là, per esempio, no? Già tre volte ho avvistato. Adesso c'ho quelli l'hai fatto, l'hai lo conosci, quello lì, andavano abbastanza bene. Penso che andiamo meglio di chi si qua a pastiera. Vabbè, l'iPhone, diciamo, come il battesimo, non mi piace, è bello, per dire che questo sta va bene, sente bene, mi sentono bene, non solo che quando vai a mandare un messaggio, non va a lui, non preferisco più la pastiera. No, no, io mi sono talmente abituato che oramai mi piace di più di quello con la della tastiera. Avanti già. Così sono usa e getta, insomma. Che computerino che ho preso io, quello piccolino così, devi si usa e getta. La dura. Perché si può fare le stronzate già va bene. Oramai le cose sono così, mi sono tutto così. Allora, se compri una cosa la paghi, penso che ti fa un tocco di tempo. E allora se tu compri una cosa da 40 euro ti fa 40 euro. Se tu la compri da 1000 ti fa la 1000. È normale, no? È così. Però Gianni, vai che mi dici un computer, cosa è diretta? Il computer si può sempre acquistare. Cosa togli? Lo faccio io. E arriva la ragazza che tu sai. Mi ricordo l'aria, l'inglese jack. Il microfono è... Aspetta. Ok. Il microfono è cuffia, no? La seconda. Come lo metto non si sente, cioè esce fuori l'audio dalle casse sue che hanno, però mi hanno detto, vedi, funziona bene, viaggia la grande, tranquillo, adesso non so, vale la pena di starlo, non è informale, se mi prendono tipo 50 di euro è fattibile la cosa, altrimenti nada, molto così, non prendo la battaglia, però questo qua ho un computer a 550 euro. E guardo, costa vabbè, sono così, sono, ma secondo me oramai non ci contano neanche più i soldi, hanno quelle durate e basta, hanno secondo me, c'è quello che riesce meglio, quello che raggiusta e così vicenda. E così funziona, oramai si sta tutto cambiando le cose. Anche io avrei voluto che questi apparati fossero stati più tecnologici. So, a parte la regolazione, cosa, prendi, attacchi il cavo USB, attacca il computer e te ne fai, aggiungi il canale, gli fai. Io avrei voluto che gli apparati fossero stati così. Molto più semplice, cioè attacca il computer e fai tutta la regolazione. Vabbè, sono cose elettroniche. Vabbè, ti posso dire una cosa, questo salto non l'ho preso la bomba, però la batteria non è molto granché, mentre ci fa 3 giorni, comunque sia, funziona bene, sente bene, molto bene. Le foto noi sono molto granché, ha dei video ma niente di particolare. Ma così faccio, non so che ha perdere tempo a distarlo, però ce lo butto. Cappa. Oh, ma sono una roba buona, dai. Cioè, va bene. Avanti io. Ho già. Avanti, avanti. Io vado avanti e me ne vado tutto a letto perché bello che stanco, mi ascolto, dai, altri 10 minuti, un 4 ore poi vado a letto. Avanti, Anto. Gappa, allora ti auguro una buona notte già. Gappa, gappa, io mi sto aprendo gli occhi, adesso sono un bel stanco. E mi ascolto, dai, fin quando ce la faccio. Gappa, gappa. Cacchino, dove sei? Gino? Dimmi già. Ma ti stavo chiamando. Dimmi. Ma riprenditela, cambio. Ma perché stai chiudendo? Negativo. E Gianni? Ti sei drummito. Davvero? No, drummito non sono qua. Già. E sono vestito. Va. Luca. Via. Passare due, solo due secondi in FM a vedere come lo sente. Vai. Faccio un casino vero. sei fermo o stai lavorando tu? Lavoricchiando, dai. Lavoricchiando, piano piano? Sì, piano piano, sta andando. Ma sempre quando togli l'area del comune? Sì, io. Esatto, ma non ho saputo se c'è qualcosa, se c'è qualche cosa, una parte di lavoro, no? Niente, no? No, negativo. Aspetta un attimo. Qua K. Giuseppe. Sì. Non è tanto che c'è un ghiaccio brucio. Vabbè, se per qua sentiamo l'opera, scusate un attimo, non fare da lo sai che puoi riprovare al computer. E qua non c'è nessun problema, o Luca. Guarda a vedere, ora, ora, prova. Già va bene. Deve essere, sta facendo la batteria o altro? Sicuramente. Allora te lo compri pure tu? Tu adesso non lo so. Non lo so. È la materia prima mi manca, Anto. La materia prima è... Non è che devo ritirare milioni, però, cazzo, qua. Ne sono anche stufo di sentirmi che non c'è nessuno qua, boh, ma anche adesso mi ha risposto la moglie, dice che il marito non c'è, che è a Torino per coso, mi telefona domani notte, vediamo cosa ne decide, boh. Radio li varia da. Ma un bel radio deve fare, vabbè, deve scendere l'aereo a quello domani. Che... Secondo me non ci sono più speranze, o Giuseppe. Sì, ci sono le speranze, perché cazzo... Se ci sono, perché ma la gara me ne posso dare io, o la mala, o la cattiva, io solo che ne faccio tutti da questo. A meno che non li punti un fucile a canna e morte, allora se emoziona ti dirà. No, no, senza usare le armi, niente. Io ci vado con la giustizia, poi si arrangia, io ci vado esattamente con i carabinieri e poi vediamo. Ho visto che ho solo una cosa, ho visto chi è disonesto gli si pone la faccia in culo, chi è onesto invece è sempre il penalizzato. Esatto. Attenzione una cosa, ma tu lo prendi il canale, quello Mediaset, Media Gold. Quale? Mediaset quale? Quello di... Cazzo, va. Media... vabbè, il canale che ci si chiama, si dice Mediaset, danno le repliche delle... di quello che danno il giorno dopo, ho capito, le repliche. E adesso c'è cosa, c'è quella, sei l'ultima della barzelletta. È bello quel programma, divertente. E chi c'è roba vecchia, eh? E vabbè, ma è da sempre cazzo, sempre buono. A me piace, pure a me. Beh. Oh, yeah. Vabbè, dai. Ma ti trattieni oppure stai chiudendo? Guarda, io sono qui. E vabbè, allora ti riprendo dopo con calma, che vado nel piccolo QTH piccolino, hai capito? Caffa, se ci vai tu ci vado anch'io, dai. Ti aspetto qui? Caffa. Ma dai, 1, 2, 3, via! Via! Attenzione Giuseppe Caffa. Giuseppe è andato a Cudiaca piccolo. E magari per fortuna non si è sentito l'odore, per fortuna sono andati così. E che odore? inteso. Non so. Perché la fa? Quanti, chi c'è? Leon C. Andi sul mic. Leon C. Io sono dormito. Sento che stavo andando al CTH piccolo. Allora che farà? Come ti ho trattato nella risucchiata? Tutto va meglio. Sono a dormire. Aia. Cosa? Non è la vecchiaia, la stanchezza. Che affa? Oh, non è un da un po' di tempo, non riesce a comprendere una cosa. Che cosa? Non vede niente se fosse in capo. Non ho ancora capito chi è il buono e chi è il cattivo, secondo me. Non ne voglio discutere quanto. Vabbè, una battutina. Lo già. E io gli ho capito. Dai, se ne accorgeranno, va. Ma che te frega. Eppa. No, non ti spacco le orecchie, già. E io, vabbè, già va bene come l'altro. Per così sempre va bene lo stesso. Sì. No, adesso la sera uso questo che è più... hai capito? Non voglio far traballare niente. Voglio lasciare in pace. Poi, uso l'altro. Ah, va, va. Perché questo c'ha 5 watt, l'altro non c'ha 5 watt. Ho già. Esatto. Questo ha 5 watt normale. Ho capito. E quindi, per non creare rompimento di palle, so anche. Tanto io me ne... ho guardato 3-4-3, sentiamo, buonanotte a tutti. Ma buonanotte. Ciro! Attenzione, Leoncino, K. Cino. Poi. E ci sei già. Ehi. Ed è evacuente. No, Ero nel comodo. Ti ha covato, Nare? No. Vabbè, c'era la finestra aperta. Passo un pochettino in testa di questa luce perché è troppo forte e a me non mi serve così forte. Sto guardando poco fa questa cosa accesa. Ma in camera tua sento. Pa. Ah? Tu dici K. Ho capito, capito, capito. K. Lampadario. È allumato tutto, non ce n'è bisogno. Si vede lo stesso, no? Adesso l'ho messo a due, capo. A due? A due lampadine, perché si può mettere anche a cinque. Qui non sono per due lampadine, sono quelle a risparmio, là. Che cappa, non so. Ma c'è dove? Ma a casa mia non c'è una lampadina normale, ci crede? C'è qualche a LED? No, non a LED, no, a risparmio. Di quello è no, a risparmio energetico. Ah, cappa. Vabbè. Non viene. Ma ve la porta a pagare tutti a 4 volte di più. Ma non esiste nemmeno. Che cappa. Paranoia, cazzo, va. Paranoia, sì. Sì, ma paranoia. Ragazzo, però qualcosa c'ho. Adesso modulo sempre con questo. ma non mi viene il nome adesso. Rosmet, ho sempre attaccato. Papa, grande o piccolo? Polino, un Intec, ma funziona bene. Ho capito, non ho trovato i stagionali. La telemisura sempre a 1-1, sempre. Papa. Oh, via. Allora c'è attaccato anche il motofusibile questo, ma tu. Non credo, già. C'è anche il fusibile di scorta, te lo danno. Ah, dentro la palazzo. Ma sta fai fissaggio, tutto, beh. Esatto. Ah, c'ho cercato di fare qualche modifica, di attaccare qualche microfono da tavola, adattaglielo, e vedo un po'. Mi piace il microfono da tavola, più che altro il microfono palmare. Affa. Questo va bene, me. Non ti piace, Giuseppe, questo? Tappa. Adesso vediamo. Mi ha adattato qualcosa. Ma comunque, io sono contento anche così, dai. Tappa di Roger. Ci ha tanta la grande radio, però modula bene. Vedi, ce l'avamo fatta per andare il canale su. E il canale giù era stata una radio super indovinata. C'è, si chiama Esport 120 canale. Cappa, e ma costa la barca di soldi però. Cosa la barca di soldi? 70 euro costa. Quanto? 70 euro. Procuri altri 70 euro e te la piazzi. C'è sia c'è il pro e c'è anche lo Deus, c'è ci sono tutte e due con la versione Esport. Ho capito. Ma c'è 120 canali però è che non te ne mettono maledetti che li vedano, però si potrebbe fare anche questo, porti a qualcuno che lo sa fare e te lo fai pensare. È stata enorme modificare questo apparecchio. Una cazzata, Sì. Perché ce l'ha già le cose degli europei, le bande europee. Ah, ce l'ha già. Ma c'è quello della Germania che ti dà su in FM, eccetera, eccetera. Cazzo. E ho già la prima adesso l'Israele non mi guardo per il televisore come ad ormai adesso ce ne vai con giù la parata, vabbè, ma quando c'è gente in gamba già fa piacere, giusto? Non lo so, però se non c'è nessuno preferisco farmi quattro chiacchiere con te e poi chiudere entrare un po' la televisione, hai capito? Capo, io adesso vado un pochettino sul 5 a ascoltare, magari se mi dà garbo, ci sono persone che mi garbano, entrerò pure. Beh, dai, ci sentiamo domani, dai, con calma, o ci vediamo verticale, ciao ciao. Buonanotte e buon tutto per domani, dai. Ciao Giuseppe, dai, ci risentiamo. Ciao ciao.